comincerei appunto a parlarci di Per Barclay stesso, insomma, di fare un po' un inquadramento per i nostri ascoltatori su questo artista contemporaneo. Per nasce a Oslo, in questo momento ha una cifra tonda, ha 70 anni, ha studiato arte alla sua università di Bergen e negli anni 80, nei mitici anni 80 della Bologna immaginaria, la Bologna della cultura partecipativa, la Bologna laboratorio, e ha, possiamo dire che ha fatto il suo viaggio di esperienza e si è fermato e ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Proprio in quel periodo, mentre studiava pittura, grazie anche alla vicinanza, no, alla prossimità tra l'Accademia e la Pinacoteca Nazionale di Bologna, ha avuto modo di non soltanto studiare i capolavori del Seicento che sono conservati, custoditi e messi in valore nella nostra Pinacoteca, ma anche proprio di entrare in contatto e di relazionarsi con, da un lato, le opere iconiche che conserva la Pinacoteca, ma anche di rapportarsi con i suoi autori, no? Con gli antenati, cioè con tutti i protagonisti del Seicento bolognese. Quando fa scultura è interessante, sono piccoli oggetti, no? Quando lavora con opere non soltanto iconiche, ma con opere artistiche, ha dei volumi più grandi, quindi esplora anche i diversi volumi e le diverse misure. È un artista molto, come dicevo prima, non solo rigoroso, anche molto schivo, lo conoscerai, che secondo me rappresenta, incarna l'artista nordico, cioè è understatement. Se tu parli con lui e lui ti guarda negli occhi, ma anche se ama il Seicento bolognese, no? Non ha cioè quell'aspetto un po' barocco, no? A volte o anche autoreferenziale che molti artisti hanno, senza, diciamo, non c'è una valutazione di giudizio. Un uomo schivo, concreto, rigoroso, che lavora molto in questa relazione tra le opere, gli spazi che attraversano queste opere, lui fa le installazioni, e il ruolo del visitatore, dello spettatore, del pubblico, che io trovo in questo momento un elemento centrale. Un po', chissà se viene da quella sua idea di Polonia partecipativa, ma un po' ormai anche con la Convenzione di Faro, il patrimonio, no, è delle comunità. È il ruolo sociale che il museo ha il compito di svolgere, è proprio quello di avere un ruolo attivo e generativo di relazioni con i pubblici di prossimità e con i pubblici, anche con i flussi turistici. E le sue opere sono molto attente a costruire una relazione con chi guarda. Non è un artista che arreda gli spazi, è un artista che lavora con i processi portano dei risultati, ma è tutto processuale, per cui sceglie lo spazio con cui dialoga, non soltanto, cioè quando ha scelto di metterlo qui è perché voleva costruire una serie di rimandi, che sono rimandi all'architettura, sono rimandi all'abisso, alla profondità, alla sua cifra di scendere, no? In profondità, e in fondo quello che l'occhio vede in profondità è quello che si suggerisce o si invita lo spettatore a fare spazio e comprendere l'attualità della strage. Infatti anche, appunto, come diceva poco fa, è anche una visione strettamente politica oltre che fotografica, chiaramente. Io direi che l'arte è politica, sì, però sì. Questo lo dico io, non lo attribuisco, credo che l'arte sia politica, in qualunque sua forma e in qualunque sua manifestazione. E questa operazione, che appunto è così gentile, ci impone di non fare finta, ci impone di toglierci il maquillage che tutti i giorni ci mettiamo per sopportare l'assurdità di guerre, di conflitti, di stragi, e ci chiede di posizionarci all'interno della nostra vita, di costruire la stavolta un dialogo, insomma, di esatto, perché a quello proposito che noi, di quello che, esatto, quello che noi speriamo è che un po' tu sempre, quando c'è una mostra, quando c'è un'installazione, quando c'è un, metti in gioco, no? Perché esporre si dice che è turbare l'armonia, e in questo caso quello che noi vorremmo è che il visitatore entra in un modo e esce in un altro, perché ha fatto un esperimento di esperienza in cui si è messo in gioco con le proprie emozioni. Ci auguriamo appunto che più persone possibili possano. E noi vi ringraziamo per fare eco. Grazie mille. Grazie a la te. Lascio. Grazie.